Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 17ª puntata. Presagi di polvere. Le stanze di Tartar erano le più curate, le più pulite, le più ordinate che si siano mai viste sotto il sole, la luna e le stelle. Il pavimento era lindo e lustro, al punto da farti supporre che il nero di Londra si fosse emancipato per sempre, andandosene dal paese una volta per tutte. Ogni oggetto di ottone posseduto da Tartar era così lucido e terso da sembrare uno specchio di metallo. Non una macchia, un'impurità, uno schizzo insudiciava le immacolate divinità domestiche di Tartar, grandi, piccole o medie che fossero. Il salotto sembrava la cabina dell'ammiraglio, la stanza da bagno sembrava una latteria, la sua camera da letto, arredata tutt'attorno con cassettiere e stipetti, sembrava un negozio di sementi. E la sua amaca, ben bilanciata in mezzo alla stanza, oscillava come se respirasse. Ogni sua proprietà aveva un posto assegnato. Lo avevano le mappe e le carte nautiche, lo avevano i libri, lo avevano le spazzole, lo avevano le scarpe, lo avevano i vestiti, lo avevano le bottiglie, lo avevano i telescopi e gli altri strumenti. Tutto era facilmente accessibile. Mai nave da guerra fu tirata più a lustro e meglio preservata da tocchi distratti. In quella radiosa giornata d'estate, sopra il giardino di Tartar, era stata tesa una tenda come solo un marinaio esperto avrebbe saputo fare. Nel fare gli onori di casa su questo imponente veliero, Tartar si armonizzava col resto. Quando un uomo cavalca un docile cavallo a dondolo che non scarta di fronte a niente, non tira calci a nessuno, è sempre piacevole vederlo umoristicamente consapevole del lato divertente del suo gioco. Quando poi l'uomo è per natura un uomo cordiale e giudizioso e per di più perfettamente sincero e genuino, si può supporre che proprio una situazione come questa permetta di apprezzarne al meglio i pregi. E dunque Rosa non poteva non pensare, anche se non fosse stata scortata attraverso la nave con tutti gli omaggi dovuti alla prima signora dell'ammiraglio o alla prima fata del mare, come fosse incantevole vedere e sentire Tartar, che un po' rideva e un po' godeva di tutti i suoi marchingegni. E in ogni modo Rosa non poteva non pensare che l'abbronzato marinaio si mostrasse al suo meglio quando, a visita finita, si allontanò con delicatezza dalla cabina ammiraglia, pregandola di considerarsi la regina del luogo e invitandola, con la mano che aveva tenuta stretta la vita di Crisparkle, a disporre liberamente del suo giardino. Elena, Elena Landless, sei lì? Chi mi cerca? Non Rosa, mentre compariva un altro bel viso. Sì, tesoro, ma come sei arrivata fin qui, amica mia? Come mai ci troviamo insieme o quasi insieme in modo tanto inaspettato? Inaspettato davvero, in mezzo ai frontoni e ai comignoli fuligginosi dei parenti di PJT e ai fiori sbocciati dal mare salato. Ma Rosa, ridestandosi, le raccontò in fretta come facevano a ritrovarsi insieme e i perché e i per come della faccenda. «E c'è anche Crisparkle», disse Rosa, concludendo rapidamente. «E ci crederesti? Tanto tempo fa gli ha salvato la vita». «Crederei senza esitare a un simile atto di Crisparkle», disse Elena arrossendo. «Sì, ma non è stato Crisparkle», intervenne in fretta Rosa correggendola. «Non capisco, tesoro. Crisparkle è stato carino a farsi salvare», disse Rosa. e non avrebbe potuto mostrare meglio l'ammirazione per Tartar, ma è stato Tartar a salvarlo. Gli occhi scuri di Elena guardarono intensamente il volto luminoso tra le foglie e lei chiese, in tono più pacato e riflessivo: «Adesso Tartar è lì con te?» «No, perché mi ha lasciato...» «Ci ha lasciato, volevo dire, le sue stanze. È un posto talmente bello. Davvero. È come l'interno della più splendida nave che abbia mai preso il mare. Come un sogno?» suggerì Elena. Rosa rispose con un lieve cenno di assenso e annusò i fiori. Elena riprese, dopo una breve pausa di silenzio, durante la quale parve compatire qualcuno, o forse fu Rosa a immaginarlo. «Il mio povero Neville è di là che legge in camera sua, perché a quest'ora il sole è troppo forte da questa parte della casa. È meglio, credo, non dirgli che sei così vicina.» «Sì, lo credo anch'io», esclamò Rosa prontamente. «Immagino», proseguì Elena incerta, «che prima o poi venga a sapere tutto quello che mi hai raccontato, ma non ne sono sicura. Chiedi consiglio a Chris Park, il tesoro mio. Chiedigli se posso dire a Neville quel tanto, quel poco del tuo racconto che mi sembrerà opportuno.» Rosa scese sotto coperta e pose la questione. Il canonico si pronunciò a favore della libertà di giudizio di Elena. «Lo ringrazio molto», disse Elena quando Rosa riemerse a riferire. «Chiedigli se conviene aspettare finché si palesi qualche nuova calunnia o persecuzione di Neville da parte di quell'infame, o se sia meglio anticiparlo, intendo, provare a scoprire se è qua intorno a tramare oscuramente qualcosa del genere.» Il canonico si trovò in grandi difficoltà a decidere su questo punto e dopo due o tre tentativi falliti suggerì di sottoporre la questione a Grugius. Avuto il consenso di Elena, si diresse da PJT ed espose il quesito. Grugius sostenne con decisione la validità del principio generale che se si poteva prevenire un furfante o una belva conveniva farlo. Sostenne con decisione anche la validità del caso specifico, che John Jasper era un furfante e una belva combinati insieme. Così consigliato, Chris Sparkle tornò indietro e riferì a Rosa, la quale a sua volta riferì a Elena, la quale, affacciata alla finestra, si concentrò sui suoi pensieri e poi chiese: «Rosa, possiamo contare sulla disponibilità di Tartar ad aiutarci?» «Oh sì», Rosa timidamente credeva quasi di poterlo garantire. «Ma doveva chiederlo a Chris Sparkle? Sono convinta che su questo punto la tua autorità sia pari alla sua, mia cara», disse Elena pacatamente. «E non serve che tu scompaia di nuovo per questo. Che strana Elena.» Il rinfresco che Tartar fece comparire nella cabina ammiraglia semplicemente toccando la chiusura a scatto di uno stipo e la maniglia di un cassetto fu un incanto. Magnifici biscotti alle mandorle, liquori scintillanti, spezie tropicali magicamente conservate e gelatine di paradisiaci frutti tropicali si esibirono sontuosamente col preavviso di un attimo. Ma Tartar non riuscì a fermare il tempo e il tempo avanzò a grandi passi con la sua fretta spietata e presto Rosa fu costretta a lasciare il paese del fagiolo magico e a scendere sulla terra in casa del suo tutore. «E adesso, mia cara», disse Grugius, «che facciamo? Per dare un'altra forma a questo pensiero, che facciamo di te?» Rosa non poté che guardarlo con un'aria rammaricata, consapevole d'essere d'impaccio a se stessa e a tutti gli altri. L'idea fugace di passare la vita in cima alle molte scale, a prova di incendio del Farnival, fu l'unico pensiero vagamente somigliante a un piano che riuscì a concepire. «Mi è venuto in mente», disse Grugius, «che quella degna persona della signorina Twinkleton, durante le vacanze viene occasionalmente a Londra per ampliare la cerchia delle sue conoscenze e rendersi eventualmente disponibile a colloqui con i genitori metropolitani. E se la invitassimo, giusto per avere il tempo di guardarci intorno, a stare con te per un mese? Stare dove, signore? E se prendessimo un alloggio ammobiliato qui in città per un mese e la invitassimo ad occuparsi di te per quel periodo? E dopo?» accennò Rosa. «E dopo», disse Grugius, «non staremo peggio di adesso. Questo potrebbe facilitare le cose, penso», assentì Rosa. «E allora», disse Grugius, «andiamo a cercare un alloggio ammobiliato. Nulla potrebbe essermi più gradito della dolce presenza di ieri sera per tutte le restanti sere della mia vita. Ma questi non sono luoghi adatti a una giovinetta. Andiamo a caccia di avventure e in cerca di un alloggio ammobiliato». Nel frattempo Chris Sparkle, che sta per tornare a casa, avrà indubbiamente la gentilezza di vedere la signorina Twinkleton e di invitarla a collaborare al nostro piano. Chris Sparkle, ben disposto ad assumersi l'incarico, si congedò. Grugius e la sua pupilla intrapresero la loro spedizione. Dato che per Grugius andare in cerca di un alloggio ammobiliato significava attraversare la strada e fermarsi a fissare una casa con un cartello di quel tenore alla finestra e poi tortuosamente raggiungere il retro e fissarlo e poi non entrare, ma applicare lo stesso metodo a un'altra casa con lo stesso risultato, la ricerca procedeva con grande lentezza. Alla fine si ricordò di una lontana cugina di Buzzard, vedova, che un tempo gli aveva chiesto di esercitare la sua influenza nel mondo delle locazioni e che viveva dalle parti di Bloomsbury. Il nome della signora sulla targa di ottone, nitidamente dichiarato da imponenti maiuscole e tuttavia non chiaramente dichiarato in relazione al sesso o allo stato civile, era Billikin. Languida fragilità e travolgente franchezza erano i tratti organizzativi dominanti di Billikin. Con aria spossata uscì dal suo salotto privato sul retro, come se fosse espressamente rinvenuta per l'occasione da un accumulo di svenimenti successivi. «Spero di trovarvi bene, signore», disse con un inchino, riconoscendo il suo visitatore. «Vi ringrazio, molto bene. E voi, signora?» rispose Grugius. «Bene», disse la signora. «La mia pupilla e una signora più anziana», disse Grugius, «desiderano affittare un alloggio signorile per circa un mese. Avete delle stanze disponibili, signora?» «Signor Grugius», rispose, «non vi voglio mentire». «Ebbene sì, stanze disponibili ce l'ho». «Possiamo vedere queste stanze, signora?» chiese il tutore. «Signor Grugius», rispose Billikin, «potete, non ve lo nascondo, signore, potete farlo». Billikin mandò la domestica in salotto a prenderle lo scialle e dopo esservi stata avvolta fece strada. Con signorilità sostò più volte sulle scale per riprendere fiato e in salotto si strinse la mano sul cuore come se si fosse quasi liberato e lei l'avesse sorpreso nell'atto di prendere il volo. Furono poi concordati i dettagli per prendere possesso dell'appartamento due giorni dopo, quando ragionevolmente ci si poteva aspettare l'arrivo della signorina Twinkleton. E Rosa tornò al Farnival al braccio del suo tutore. Ma osservate Tartar, che cammina avanti e indietro davanti al Farnival, si ferma e va al loro incontro. «Stavo pensando», accennò Tartar, «che con questa bella giornata e la marea favorevole potremmo risalire il fiume. Ho una barca giù al Temple». «Quant'è che non vado sul fiume?» disse Grugius tentato. «Io non ci sono mai stata», aggiunse Rosa. Dopo mezz'ora rimediarono alla cosa. La marea risaliva con loro. Il pomeriggio era incantevole. La barca di Tartar era perfetta. Tartar e Lobley, il suo marinaio, remavano. A quanto pareva Tartar aveva un panfilo ormeggiato dalle parti di Green Hides di cui si occupava il marinaio, ma quel giorno era stato distaccato per il servizio richiesto. Era un uomo dall'aspetto gioviale, con capelli e favoriti fulvi e un faccione rosso. Era l'immagine perfetta del sole nelle vecchie incisioni, con i capelli e i favoriti che facevano le veci dei raggi tutti intorno. Seduto radioso a prua, era uno splendore a guardarsi. Con la camicia della marina militare che lo copriva o scopriva a seconda dei punti di vista, e con le più svariate figure tatuate su petto e braccia. Lobley pareva non fare nessuna fatica, e nemmeno Tartar. Eppure i remi si incurvavano entrando in acqua e la barca balzava in avanti veloce. Tartar, come se non stesse facendo nulla, parlava con Rosa, la quale realmente non stava facendo nulla, e con Grugius, che faceva abbastanza per mal governare il timone. Ma che importava se un abile movimento del polso di Tartar o un semplice sogghigno di Lobley a prua bastava a rimettere tutto a posto? La marea li trasportò, gaia e spumeggiante, finché non si fermarono a pranzare in un giardino sempreverde, e poi la marea con gentilezza cambiò. E mentre si lasciavano pigramente portare tra i giuncheti della corrente, Rosa si cimentò ai remi e se la cavò splendidamente, disponendo di una continua assistenza. Si cimentò anche Grugius, che si ritrovò disteso sulla schiena, piegato in due e con un remo sotto il mento, non disponendo della minima assistenza. Poi ci fu un intervallo di riposo sotto i rami degli alberi, durante il quale Lobley passò lo straccio e, sistemando cuscini, puntapiedi e ogni altra cosa, si mosse con l'agilità di un funambolo per tutta la barca, a piedi nudi, come se le scarpe fossero una superstizione e le calze una schiavitù. Poi venne il dolce ritorno, tra il delizioso profumo dei tigli in fiore e la melodia delle onde. E troppo, troppo presto, la grande città, nera, gettò la sua ombra sul fiume, mentre i ponti scuri incombevano sull'acqua, come la morte incombe sulla vita. E il giardino sempre verde parve perduto per sempre, irrecuperabile e remoto. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.